A tempo di sport di Gigi Garanzini. Vigilia del debutto dell'Inter ad Abu Dhabi, domani alle 18, la semifinale mondiale contro i coreani del Seongnam. Cresce la fiducia, non tanto per questa semifinale perché ci mancherebbe altro, ma cresce la fiducia a quanto pare nel ritiro interista per la finale di sabato, insomma, che è l'obiettivo minimo, anche se poi l'obiettivo reale è quello di tornarsene, di rincasare col trofeo. E allora sentiamo in ordine, direi, presidente, allenatore e un giocatore, uno dei leader recuperati, quasi certamente recuperati per questo mini torneo. Cominciamo da Moratti. Ho sentito molto bene, infatti gli allenamenti sono molto importanti perché danno già un clima di grinta, di voglia di fare. Si cerca di dare il meglio e speriamo che i giocatori siano tutti in forma e poter ripetersi per quello che ha fatto anche l'anno scorso. Io si sapevo che era forte, si sa che Ibrahimovic è forte, quindi conferma quello che ho sempre pensato. Infatti quando abbiamo venduto una cifra che era pari a quello che era. Vabbè, era un putpurri, no, di dichiarazioni morattiane, in cui c'era dentro anche Ibrahimovic, ma stavolta nessuna voglia di polemizzare, anche perché ormai, dicevo, la scadenza è vicina e quindi non, le distrazioni non sono più ammesse. Sentiamo se l'intendimento, se la linea è identica da parte dell'allenatore Benitez. Molto contento perché ho la possibilità di fare una scelta diversa se voglio farlo, e sono d'accordo che la squadra, tutti erano lavorando al 100%, la squadra era contenta tutti questi giorni, cioè, penso che l'ambiente, l'atmosfera è stata positiva e sarà positiva per questa partita. Sicuro che giocheremo con 11, ancora no, non lo sappiamo e no, se lo sappiamo non diciamo niente. Vediamo, oggi hanno fatto un allenamento per me molto buono, si vedeva che la squadra era contenta, come ho detto prima, e tutti sono preparati per farlo bene domani, ma decidiamo domani. L'Inter è una squadra forte, una squadra che è qua per vincere. Prima una partita non si pensa che si può perdere, così abbiamo fiducia, siamo convinti che possiamo vincere. Le ultime che rimbalzano da Abu Dhabi parlano di un solo dubbio rimasto in formazione, è quello tra Thiago Motta e Stankovic. Dovrebbero rientrare praticamente tutti gli infortunati di lungo corso, tant'è vero che dovrebbe giocare Julio Cesar in porta, Maicon e Zanetti come esterni, Lucio e Kivu centrali, e quindi una formazione impensabile, cioè una difesa impensabile soltanto pochi giorni fa. In attacco Pander, Sneijder e To a sinistra e Milito centrale, e i dubbi sono appunto a centrocampo, e al momento sembrano Stankovic e Cambiasso i favoriti, ma Thiago Motta è la prima delle alternative possibili, non è detto che tocchi a lui in partenza la panchina. Tra i ritorni certamente più significativi c'è quello di Milito, sentiamolo. L'espirito è stato sempre, purtroppo con le piccole difficoltà che abbiamo avuto fino adesso, ma l'espirito del gruppo c'è stato sempre, anche le difficoltà, come ho detto prima, sicuramente adesso che siamo tutti disponibili siamo tutti più contenti. Questa competizione è unica per tutti noi, non si sa quando la puoi rigiocare un'altra volta, quindi dobbiamo cercare di goderci questa grande competizione, ovviamente lasciando tutto e ovviamente cercare questo traguardo importante che noi ci teniamo tanto. Ci sono 13 squalificati da parte del giudice sportivo e ben 4 sono giocatori del Napoli: Pazienza, Aronica, Campagnaro e Cannavaro, tutti per somma di ammonizioni. Gli va bene perché sconteranno la squalifica domenica con il Lecce, che insomma, è pur sempre una squadra da rispettare, ma meglio in casa con il Lecce che altrove, magari contro una squadra più forte. Quindi Pazienza, Aronico, Campagnaro e Cannavaro del Napoli squalificati, e poi ci sono Morimoto e Alves de Lima del Catania, Anderson da Silva del Cagliari, Brocchi della Lazio, Donadel della Fiorentina, Felipe Melo della Juve, Mudingai del Bologna, Rigoni del Chievo e Zebina del Brescia. Questi i provvedimenti adottati stamane dal giudice sportivo. Ce n'è un altro che è sinceramente più atteso come provvedimento e che verrà preso nel pomeriggio dal presidente Giuggioli, arbitri Fazzo e Macri, ed è questo il collegio arbitrale che deve decidere sul caso Cassano e che è già riunito in uno studio legale milanese, è una sorta di camera di consiglio, già già attiva, insomma, già. Già in dirittura d'arrivo, perché la decisione che verrà, che dovrebbe essere presa nel pomeriggio, così recita l'ultima agenzia uscita, sarà resa nota alla Sampdoria e al procuratore di Cassano tramite la segreteria del Lega Calcio. Queste sono le modalità attuali. Sono in attesa di arrivare all'argomento clou del martedì, che è quello del calcio internazionale. Ce ne sono altri di argomenti. Per esempio, abbiamo preparato un collage di dichiarazioni di Ranieri di questo tardo autunno e inizio inverno, diciamo pure, che insomma mi pare documentino, testimonino di una certa escalation sul piano dei nervi da parte dell'allenatore della Roma, che insomma è discretamente contestato anche all'interno della sua stessa tifoseria, e forse per questo, ripeto, insomma, si sta lasciando andare progressivamente a dichiarazioni, ad atteggiamenti che insomma erano abbastanza sconosciuti fino a non molto tempo fa a suo carico. Poi avremo per l'appunto la parte relativa al calcio internazionale, ma ci sono anche altri argomenti sul tappeto. Per esempio, il direttore generale della Juventus ha fatto il punto sulla vicenda del Neri Buffon, che ha fatto parlare non poco in questi giorni. È molto merito di questo nostro ruolino di marcia, è merito del Neri, perché non solo è stato in grado di valorizzare al massimo le risorse, non ultimo il fatto di aver mai fatto diventare titolare un giocatore come Soares, ma soprattutto aver creato un'organizzazione di gioco, una mentalità vincente. Questo credo che sia un buon viatico per il futuro. Non credo assolutamente che in questa situazione Buffon possa essere considerato un giocatore trasferibile, prima di tutto perché deve ancora riprendersi dall'infortunio, e poi perché è un nostro valore aggiunto, un giocatore importantissimo per l'economia tecnica della squadra, del presente e del futuro. Una mail, Giovanni da Bassano del Grappa, no una mail, chiedo scusa, un sms, dice: allora cosa ne pensa delle recenti dichiarazioni del medico spagnolo Fuentes? Il tanto decantato calcio e sport spagnolo in generale come ne escono? Ma guardi Giovanni, io contavo di parlarne più avanti con Fabio Tadelli, anche per una precisa competenza internazionale. Dal mio punto di vista io credo che insomma queste dichiarazioni, non so se forse è utile ricostruire come sono uscite, nel senso che il dottor Fuentes, che è attualmente un detenuto proprio per inchieste pregresse sul doping, avrebbe, e sottolineo avrebbe, parlato con un altro detenuto, e quest'altro detenuto avrebbe rivelato il contenuto delle minacce di Fuentes. Se parlo io salta l'intero sport spagnolo. Diciamo che quando mi hanno insegnato tanti anni fa i parametri fondamentali del mestiere del giornalista, quei parametri erano leggermente più severi di questo. Prima della sfida con il Bologna, siamo al 18 settembre e la Roma sta andando molto male, anzi è il momento peggiore della sua stagione, perché reduce da quello straordinario secondo posto con rimonta dello scorso anno, sembrava essersi definitivamente squagliata. Sentite il linguaggio di Ranieri in questo caso. Nel primo tempo, chi ha avuto più occasioni da gol? Siamo stati noi, non loro. Giulio Sergio non ha fatto una parata nel primo tempo. Poi abbiamo sbagliato, colpa mia, me ne assumo le responsabilità. Ma la squadra c'è, la squadra vuole. E non accetto tutte queste illazioni. Questa è una squadra che ha le palle, che vuol dimostrare, e lo dimostrerà. Non faccio l'elenco adesso di chi ci sta dicendo e ci sta buttando fango addosso, ma dopo ricordatevelo, e noi ci ricorderemo di voi. Beh, insomma, sinceramente un tantinello inquietante. Devo dire anche che riascoltandola, perché proprio così non la ricordavo, riascoltandola mi ha fatto echeggiare qualche intervento alla Camera di stamattina, un altro bel posto dove l'antidoping potrebbe non guastare. Andiamo avanti, passano un paio di mesi circa, si arriva all'8 novembre, si arriva al punto più alto finora della stagione romanista, perché la Roma si è ripresa, perché ha iniziato una lunga rimonta che dall'ultimo posto praticamente della classifica la riporta quasi a contatto delle prime, ma insomma, ragionevolmente vicina, a patto di vincere il derby con la Lazio, che in quel momento è davvero la squadra del giorno. Il derby la Roma, sia pure in maniera abbastanza rocambolesca, ma alla fine non immeritata, mi pare proprio di ricordare, la Roma questo derby lo vince e sentiamo il commento di Ranieri. Ah, c'era il piede sinistro in fuorigioco, mentre Diaz, che stava tutto in fuorigioco, no. Anche questo, ma che volete far vedere? Fatemi capire. No, ha ragione. Allora faccio bene a essere cambiato come allenatore. Allora, faccio bene a fare umano. Non mi piacciono, io non ho mai controbattuto a questo, ma non accetto una situazione del genere. Se voi mi dite ha sbagliato di qua e ha sbagliato di là, io mi sto zitto e accetto questo. Se voi uscite due rigori e questo e quell'altro, allora divento anch'io allenatore che vede soltanto da una parte. Sono cambiato. Semplicemente una cosa le volevo dire. Sono cambiato. A Roma faccio il romano. Io sono allegro. Io sono allegro. E state dando ancora più soddisfazione a tutti i romanisti. Ma non è... Ma come no? Ma come no? Stiamo facendo. Ma come no? Li state a far godere. Come ricci stanno a godere. Sono cambiato, no? Mi pare una missione chiara, ma io non credo che sia stato un cambio di linea di comportamento voluto. Credo che sia davvero un'usura nervosa che lo porta a essere oltre le righe, anche se, scrive Fabri da Ornago, molto spiritosamente, da interista io darei la tredicesima per sentire una conferenza stampa di Benitez sulla falsa riga di questo Ranieri, come dire, quando c'è vo, no? Tradotto in linguaggio lombardo in questo caso, visto che Ornago è dalle parti di Milano e comunque è in Lombardia. Camillo da Pescara dice: effettivamente mi sembra Ranieri un po' forzato, poco spontaneo, molto attore, e si sa che le messe in scena non pagano, ma questo poi dipenderà, come sempre io credo, dai giocatori, perché sono sempre i giocatori che poi fanno i risultati, no? Gli allenatori, ripeto per la milionesima volta, salvo rarissime eccezioni, ma proprio rarissime, possono fare più danni che altro quando risultano decisivi, e cioè lo risultano semmai più in negativo che in positivo. Ma insomma, l'escalation continua e si arriva domenica scorsa a uno scontro che si sta tuttora prolungando con un suo ex compagno di squadra, prima a Catanzaro e giocatore poi, quando ai tempi cui Ranieri allenava il Napoli e Massimo Mauro giocava nel Napoli, uno scontro, dicevo, che sta ancora continuando e che scoppia all'improvviso domenica pomeriggio in diretta su Sky. Se lo volete il problema Pizzarro, no, visto che no. Adesso voi no, cercate no, guarda, sempre la polemica, io sono no? Già allora uno c'è di quelli, il problema Pizzarro, Claudio, se voi avete il gusto di alimentare le polemiche, non c'è polemica. Pizzarro ha sempre giocato, c'è stato un periodo che non ha giocato perché si è infortunato, è ricaduto nell'infortunio, si è influenzato, quando starà bene al 100% avrà più possibilità di Ranieri, giocare. Ma il problema per Pizzarro momento, può significare anche c'è un problema per l'assenza di Pizzarro. Per il momento non c'è nessun problema Pizzarro. Benissimo. Sentite, nostro... voi eravate molto bravi quando facevate l'analisi critica della partita. Adesso mi sembra che voi state un pochettino scadendo. È un consiglio che vi do da amici. Voi volete sempre la polemica, eh? Che ne pensate? Scusami, abbi pazienza. No. Per fortuna tu fai l'allenatore della Roma e noi facciamo fermo, questo mestiere no, qua. Ma Claudio, fermo. Allora tu pensa a fare la formazione della Roma e noi pensiamo a fare quello che ci viene in mente di chiederti. Cercate, mi sembra un po' presuntuoso da parte tua polemica, doverci dire pure che cosa di non fare dobbiamo sempre fare. La polemica. Cioè, piano piano a Roma non vi vedrà più nessuno. Piano piano a Roma non vi vedrà più nessuno. Ranieri. Io vi dico gli umori della città. E mi dispiace passare il tempo. Vi saluto. Scusate. Criticate e fate polemica. Arrivederci, no, signori. E a questo punto diventa, pur con tutta la comprensione, ripeto, umana ma anche tecnica per Ranieri e professionale. Beh, insomma, a questo punto la curiosità è per capire quale sarà l'ulteriore, o quale sarebbe l'ulteriore salto, no? di qualità, perché insomma mi pare che l'escalation oggettivamente ci sia. Giovanni ha chiamato da Palermo, buongiorno. Pronto, buongiorno Garanzini. Dica. Allora, volevo chiederle una cosa. Guardi, io sto tornando da lavoro, stamattina mi è capitato un lavoro in ambito sanitario, un paziente affetto da una grave malattia psichiatrica, stamane, sapendo che sono interista, mi ha detto: guardi che Le volevo dire che l'Inter, da quando ha vinto la Champions League, ha capito dov'è che veramente si guadagnano i soldi. Quindi penso che non è interessata al campionato quest'anno. Tornando, io riflettevo su questa cosa e volevo chiederle, ci potrebbe essere qualcosa di vero in quello che ha detto questo signore? Ma quale sarebbe invece allora l'ambito, l'obiettivo, cioè quale sarebbe il posto? La Champions, pensavo le scommesse clandestine, Giovanni, perché cioè, da come l'ha messa e data la fonte che lei ha citato, no? Inizialmente stavo pensando a uno di quegli interventi che in genere però vengono preceduti dalla premessa. Vorrei fare una provocazione, lei non l'ha fatta e quindi no, sono io che ho passato troppo male. No, io non comunque no, direi proprio di no, anche perché poi la Champions è, se l'obiettivo fosse soltanto la Champions, l'Inter se la giocava meglio questa qualificazione, no? Intanto evitava di finire seconda alle spalle del Tottenham per cominciare, e quindi avrebbe pescato, avrebbe avuto una maggiore percentuale di probabilità di prendere avversari deboli negli ottavi di finale. Quindi già questo mi sembra un buon elemento. Dopodiché mi sentirei davvero di escludere che questi si facciano male apposta per... al momento direi di no. Poi quando si trattasse di selezionare gli obiettivi, allora ogni società di fronte a finale di stagione difficile, però oltretutto l'Inter l'anno scorso ha dimostrato di poter lottare addirittura su tre fronti e non su due, sicché non capisco molto davvero. Diego Taranto, buongiorno. Buongiorno, sono Garanzini. Dica. Volevo dire questo, seguo il calcio da una vita con passione, tanto che quando guardo la televisione vedo il campo verde e sento persino il profumo dell'erba. Ho amato il bel calcio, in particolar modo il calcio dell'Ajax di Cruyff e del Milan di Sacchi. Io trovo che il Milan di quest'anno di Allegri abbia parecchie analogie con il Milan di Sacchi, in quanto noto molta intensità, qualità e quantità. E poi un fattore importante, Allegri non guarda in faccia a nessuno, tra virgolette. Che cosa ne pensa? L'ascolti del radio da Rina. Sì, no, penso che non ci siano analogie, né da un punto di vista tecnico, né tattico, e nemmeno comportamentale, e nemmeno di rapporti. Credo proprio che siano due situazioni completamente diverse e due mondi diversi. C'è un solo punto comune, che così come era un debuttante al Milan allora Sacchi, è un debuttante al Milan Allegri, ma la loro storia è completamente diversa. Allegri è stato un buon giocatore, Sacchi era un teorico. Sacchi costruì progressivamente una squadra dosando campioni e gregari. Allegri si è trovato nella situazione semmai di capello, e cioè semmai di ereditare una squadra logora e cercare di rigenerarla. Poi le mosse da campagna acquisti calcistica e politica insieme degli ultimi giorni d'agosto hanno cambiato le carte in tavola, ed è stato molto ma molto bravo Allegri a quel punto ad approfittare della possibilità di un lavoro immediato e non magari proiettato nel tempo. Mi sembra che questa ranierata abbia, come dire, coinvolto più pubblico del solito. Leggo molti sms, mi segnala il centralino che gli ascoltatori che vogliono intervenire sono numerosi. Leggo un paio di mail interessanti. Luca Bianco, per esempio, scrive: il mio parere è che Ranieri mescoli l'allenatore signore che è in lui con il tifoso che è in lui, e il tifo spesso gioca brutti scherzi. E questa è una buona chiave di lettura, perché Ranieri è un testaccino di carattere, ma è pure un romanista dei cori, quindi è ovvio che il suo coinvolgimento nella Roma è più alto che non in un'altra società. E poi invece Lorenzo Germani ironicamente scrive: beh, lei saprà che parlando in questi termini di Ranieri, piano piano a Roma non l'ascolterà più nessuno. E il fatto è che io non apprezzo la battuta, ma non sto affatto parlando male di Ranieri, anzi, io, se devo scegliere da che parte stare, sto semmai dalla parte di Ranieri, per il quale ho un grande rispetto. Proprio perché ne ho molto rispetto e stima, diciamo che due o tre di queste uscite non mi sono molto piaciute. Lo preferivo lo scorso anno con quella plomb davvero a prova di, provocazione in assoluto. Poi un altro paio di mail, una in particolare di Francesco Finocchiaro da Bologna. Più avanti adesso sentiamo Andrea che ha chiamato dalla provincia di Pesaro. Buongiorno. Buongiorno Garanzini, salve, dica. Complimenti per la trasmissione. Io volevo parlare di Ranieri, mi scusi, dico il mio punto di vista, certo. Sono tifoso romanista. Sì. Secondo lei non viene un po' troppo esasperata la questione Pizarro, Vucinic, i malumori rispetto che altre squadre, vedi Milan, situazione Ronaldinho, vedi Inter quando c'erano i malumori e via dicendo. E secondo me anche soprattutto in campo europeo la Roma cominciò la sua penalizzazione con Capello quando cominciò a parlare, che ci fu l'espulsione col Galatasaray in Coppa Campioni e vedi, poi dopo seguì il Liverpool, il rigore non dato e via dicendo. Volevo chiedere a lei come la pensava, grazie. Ma io penso che io non andrei così indietro, credo che sia sufficiente arrivare alla stagione scorsa e quindi alle attese che una cavalcata fantastica come quella della Roma di Ranieri lo scorso anno ha creato, ha riverberato sulla stagione in corso da una parte, e dall'altra con l'usura di certe situazioni, di certi rapporti e di certi rapporti interni con i giocatori, come è normale che sia in ogni squadra, in una società, questo accade ovunque. Qui accade evidentemente in maniera un tantinello più esasperata, perché Roma è una piazza esasperata. Credo anche che in questa flessione romanista, che all'inizio era disastrosa e che adesso è come dire circoscritta, ma la situazione certamente non è brillante, perché si vede, no, che questa squadra scricchiola un pochino, credo che ci siano errori da parte di tanti, per non dire di tutti, e quindi anche di Ranieri compreso, e non solo dal punto di vista comportamentale. Quello su cui abbiamo messo l'accento noi era un divertissement, per sottolineare una volta di più come nel calcio si cambi, no? Ma si cambia addirittura atteggiamento personale a seconda dei momenti, tale e tanta è l'usura che il calcio ti procura, che fa rima anche, ma non era assolutamente voluta. Gianluca ha chiamato da Udine, buongiorno. Garanzini, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Niente, a proposito dei Ranieri volevo dire questo: io personalmente sono un appassionato di calcio, non è che sono tifoso di una squadra in particolare, ma mi piace guardare le squadre che giocano bene a pallone. Credo che il lavoro di Ranieri sia stato ineccepibile sia con la Roma che anche nelle squadre che ha allenato precedentemente. È chiaro che poi dopo, quando ci sono dei momenti alti e momenti bassi nell'arco di un campionato, però una squadra che gioca bene a pallone facilmente poi dopo ottiene dei buoni risultati. Se poi ci si vuole andare a guardare solamente al mignolo in fuorigioco o all'errore arbitrale o a qualsiasi altra cosa si voglia, che poi ha condizionato magari il risultato della partita, quelli sono solo degli episodi, però non si può giudicare un allenatore solo per questo. La televisione esaspera un po' queste cose, basta vedere che spesso fanno vedere un brutto fallo piuttosto che una bella azione. È chiaro che un allenatore che tanto ci mette poi dopo si arrabbia e perde la pazienza. Pronto? Lei vede giocare bene la Roma, a me non capita, mi è capitato quest'anno proprio solo in rarissime occasioni, e le dirò che con i giocatori che ci sono la cosa mi sorprende un tantino. Adesso poi, al di là di qualche problema di anche lì che c'è stato, di infortuni, e che tra l'altro è stato superato e gestito meglio che altrove, però quando sono tornati più o meno tutti a disposizione, beh, insomma, io credo che la Roma dello scorso anno fosse davvero un'altra cosa, almeno per il momento. Può darsi che si ritrovi, se si ritrova addirittura qualche freccia in più al suo arco, perché per esempio un centravanti come Borriello lo scorso anno non c'era, però continua a trovare delle lacune e dei meccanismi che funzionano meno di quello che sarebbe lecito aspettarsi, non soltanto in difesa, che pure è il punto debole spesso più appariscente. Luciano, provincia di Brescia, buongiorno. Buonasera Garanzini. Dica. Proprio visto che si sta parlando di conferenze stampa, io premesso che non sono tipo sdraio, volevo fare un appunto alle dichiarazioni di Del Neri fatte su Buffon. Cioè, Del Neri sta dimostrando sul campo, sulla gestione, di essere un ottimo allenatore, però non si è tolto ancora da addosso quell'aria da provinciale, mi spiego. Cioè tu non puoi andare in conferenza stampa e dire Buffon si deve guadagnare il posto, e in maniera velata gli stai mandando il messaggio che a me non interessa che tu ti chiami Buffon e quello che hai fatto della tua carriera, qua devi sudarti il posto. Cioè io voglio capire che De Neri sta ottenendo tutti i risultati, vuole tenere il gruppo, ma secondo me il gruppo si tiene, diciamo, nello spogliatoio. Perché Buffon, penso che siamo tutti d'accordo nel dire che da 15 anni è uno dei migliori portieri al mondo, se non il migliore, e poi vorrei ricordare che Buffon è andato in Serie B con la Juve, quindi anche, lo so che nel calcio non c'è riconoscenza, però almeno un minimo di rispetto, cioè è palese che non, con questa dirigenza e Buffon non c'è feeling, però almeno un po' di eleganza, proprio parlando proprio di eleganza, di... Sì, ma io la condivido in buona parte. Quello che non ho capito è l'atteggiamento provinciale. Io sono uno strenuo difensore della provincia e, rispetto alla metropoli, e non mi è sembrato un atteggiamento provinciale quello di Ranieri. Mi è sembrata un'uscita discutibile, ma non davvero non ravviso nulla di provinciale in quello che ha fatto, che ha detto, anche perché a Ranieri è capitato di allenare in provincia, ma anche in città e in grandi città, a Ranieri, a Del Neri sto dicendo, e non mi pare che abbia mai avuto particolari disagi ambientali, perché è una persona di grande educazione, di grande spessore, che sa rapportarsi alle situazioni mano a mano che gli si presentano. Questa volta la smania della difesa del gruppo, secondo me, e del tutti sono uguali di fronte non alla legge ma al pallone, in questo caso, lo ha portato un tantinello oltre le righe. Giacomo ha chiamato da Pesaro, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Buongiorno a lei. Un piacere finalmente, perché poi mi tiene molto compagnia ascoltarla durante questa pausa pranzo. E niente, io sono romanista e il problema è uno solo, è che Totti non corre più. E quello è. E purtroppo una volta era lui che cambiava la partita, adesso purtroppo quando uno lo vede giocare sembra che gioca a rallentatore, gioca. E quindi ne risente molto lì davanti, perché Boriello è bravissimo, è stato trovare l'ago nel pagliaio finalmente un attaccante come Battistuta. Il problema lì è Totti, quindi o si limita a giocare gli ultimi 20-30 minuti, perché rinunciare a uno come Vucinic, che sì è un cavallo pazzo, però ha dei numeri che se fosse più costante, altro che giocatoroni che ci sono in giro. Ma se fosse più costante uno, se corresse un po' di più l'altro, e la difesa dove la mettiamo? Abbiamo visto il secondo tempo in Romania di pochi giorni fa, abbiamo visto come un Bayern presente all'Olimpico solo per onore di firma li ha messi sotto 2-0, e poi c'è voluta una grande impresa a cui gli avversari si sono opposti senza, direi, senza i carri armati per centrarla. Insomma, io credo che Totti sia oggettivamente un problema, ma è un problema soprattutto se l'ha portato alla grandezza passata. Oggi mi sembra un problema che si può affrontare, ha delle giornate migliori, ha delle giornate peggiori, certamente non è più i Totti di prima e temo proprio che non lo rivedremo più, ma dire che quello sia l'unico problema della Roma di oggi mi sembra riduttivo da un lato e ottimistico dall'altro, perché fosse soltanto quello il problema, beh, insomma, credo che sia pure in maniera dolorosa, ma lo si potrebbe risolvere con maggiore facilità. Sembra ieri. 14 dicembre 1986. Per la prima volta in carriera, Alberto Tomba conquista un podio in Coppa del Mondo. Lo sciatore bolognese arriva secondo nel gigante in Alta Badia, alle spalle di un altro azzurro, Richard Pramotton. In carriera, Tomba salirà su un podio di Coppa del Mondo per 88 volte. Meglio di lui hanno fatto solo Stenmark, Girardelli e Maier. Franco Piantanida mi segnala un altro 14 dicembre che è già storia, ma insomma a maggior ragione lo diventerà. Il 14 dicembre di 10 anni fa, quindi del 2000, in una caffetteria di Rosario, Karl Rexach, direttore sportivo del Barcellona, fece firmare a Leo Messi un contratto su un tovagliolo di carta. I termini dell'accordo assicuravano a grandi linee le cure mediche al ragazzo per la sua deficienza alla somatotropina, e un lavoro per per i genitori. Dopo 10 anni e dopo 29 centimetri di crescita, quindi pensate che pulce, lo chiamarono allora la pulce, pensate che pulce reale era allora Messi, 10 anni e 29 centimetri dopo Messi ha giocato 235 partite con la maglia del Barcellona, segnando 155 gol, ma in crescita esponenziale negli ultimi anni, perché agli inizi segnava poco, ha vinto il Pallone d'Oro 2009 e due Champions League, oltre a un discreto numero di lighe spagnole. Lorenzo ha chiamato da Roma, buongiorno. Salve Garanzini, io volevo farle una domanda più che altro perché io sono un tifoso romanista, premetto, perché ho un po' di dubbi su questa squadra, la Roma, appunto. Ranieri che perde un po' le staffe, non fa parte del suo stile, ma credo che sia successo qualcosa di diverso, ma a livello mentale più che altro, perché poi analizzando la rosa rispetto all'anno scorso è solo migliorata, l'avvento di Borriello, di Simplicio, anche il gioco non è più stato come quello dell'anno scorso. Secondo lei, che ha comunque questa capacità di analisi molto lucida, obiettiva e anche signorile, discreta, cosa abbastanza rara tra i suoi colleghi a mio avviso, cosa le viene in mente, cosa pensa che possa essere successo? Nello spogliatoio, cioè, secondo lei c'è anche un problema di spogliatoio? Le pongo questa domanda perché non riesco a rispondermi. Lorenzo, io penso, grazie intanto delle sue eccessive parole, io penso che da un lato ci sia stato, soprattutto inizialmente, un complesso di appagamento alla rovescia, nel senso che non in questo caso appagamento da vittoria, ma appagamento da impresa comunque, e se vogliamo metterla con chi ragiona solo in termini di vincere o perdere, appagamento da sconfitta, se vogliamo metterla così, e quindi un trauma in ogni caso da superare, da assorbire. Bravissimi ad uscirne. Però bravissimi ad uscirne senza riuscire a stabilizzare la reazione, sempre per il mio, né sul piano nervoso e quindi anche ambientale, quindi anche dei rapporti interni, né su quello strettamente tecnico per via anche degli infortuni. Perché è vero che la squadra è più ricca dello scorso anno, però è vero anche che ci sono delle povertà, non so, Taddei, ne dico uno, ha giocato quest'anno, si era un paio di partite e poi si è rifatto male. Taddei è un giocatore chiave per gli equilibri tattici della Roma, a parte il fatto che ha anche qualità tecniche notevoli. De Rossi, insomma, è parente, secondo me, del miglior De Rossi che ammirammo qualche stagione fa. Adesso, per carità, è un signor centrocampista, è un uomo di grande presenza, di grande immanenza, di grande spessore tattico, però non è il miglior De Rossi che si conosca. Già l'anno scorso non era al suo top, ma quest'anno mi sembra leggermente in flessione ancora, di Totti più o meno si è detto, e quindi vede che le ragioni possono essere tante, fermo restando che io ho qualche dubbio, per esempio, anche su Riise, sulla vera tenuta di Riise, sulla sua vera qualità. Mi sembra che un buon routinier come Castellini lo stia facendo rimpiangere poco in questo periodo. E quindi, insomma, ci sono delle cose che vanno evidentemente messe a posto e rapidamente, perché sennò poi il treno passa in maniera definitiva. Chiuderei questo divertissement odierno dedicato a Ranieri e a questa sua strana, ripeto, mutazione, no, di quest'ultimo periodo, ricordando invece com'era il Ranieri dello scorso anno. Allora siamo andati a ripescare un altro frammento, uno a caso, ma a caso fino a un certo punto, perché era la vigilia dell'ultima giornata di campionato e c'era stata l'ennesima provocazione, ma di quelle dure, di Mourinho nei confronti suoi. Ora, se si pensa che quest'anno nessuno lo ha provocato, e al massimo, sì, come è accaduto domenica scorsa, è chiaro, no? che giochi male col Bari e vai in televisione, dove ci devi andare per contratto, e ti fanno qualche domanda di cui faresti a meno. Invece allora ci fu una provocazione dura e Ranieri rispose così. No, ma io credo che avrebbe molte più cose da dire di calcio alla gente di calcio. Invece evidentemente gli devo stare molto a cuore, parla spesso di me. Non mi importa a me quello che pensa, quello che dice, anzi, mi annoia, per cui parliamo d'altro. Beh, insomma, anche qui c'era un minimo di recita, come abbiamo sentito prima in qualche frammento, però viva Dio, con tutta un'altra eleganza e un altro senso della misura. Roberto ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Sempre a proposito dei Ranieri, ma io pongo una questione. Ma voi non sopportate ancora l'ipocrisia del politicamente corretto? Se una volta tanto una persona dice francamente quello che pensa, in termini civili, ma io dico ben venga questa mancanza di ipocrisia una volta tanto. Ben venga Ibrahimovic, che la domanda di Alciato, fai auguri, la tua è squadra, dice, è una cosa che riguarda loro e non me, ma è la verità. L'abbiamo mandato in onda ieri, in effetti, no, ma io su questo piano la condivido, assolutamente, viva la mancanza di ipocrisia, viva però i toni non così esasperati come quelli di Ranieri, perché sennò, anziché una mancanza di ipocrisia, che è sempre apprezzabile, sembra quasi una recita forzata, che è un po' meno apprezzabile, ma queste sono opinioni. Grazie a lei, grazie a tutti gli intervenuti, a Roberto Scaltritti in regia, a Franco Piantanini in redazione. A domani.